Gente che saluta solo con i guanti, qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti. Buonanotte a tutti, sono Marco, sono qui per accompagnarvi per un breve momento. Questa sera ho da proporvi un pezzo che forse ho già proposto in alcune mie performance, anche qui in città e fuori dalla città. È un pezzo di retorica creativa, cioè arte creativa, letteraria creativa, che vuole essere da una parte una specie di armonia caotica, che rimane quindi armoniosa pur essendo anch'essa un po' slegata dalle regole comuni, comunque diciamo così, della natura, quindi, o meglio della poesia naturalistica, ecco. Quindi è più decadente ma nello stesso tempo positivista, ecco, perché sapete che questi due periodi si susseguono, il positivismo e il decadentismo, e praticamente si compenetrano e procedono in pari passo. Abbiamo quindi all'inizio del Novecento, alla fine dell'Ottocento, un momento di grande sviluppo dell'arte diciamo così poetica, e il presentarsi delle grandi decadenze, ma neanche delle grandi risorgenze, dei grandi realismi, ma anche dei nuovi espressionismi, poi delle tutte le avanguardie. Ecco, questa io reputo un pezzo d'avanguardia. Chi mi ascolta, chi mi conosce, probabilmente ha già sentito, e fa parte del nuovo libro che sto scrivendo, che però dovrei pubblicare permettendo lo sponsor o chi vuole, ecco, darmi una mano. Ecco, vi leggo il pezzo. Il gradiente aggressivo. Sia beltà la pace e sia pacifica la bellezza, stante temporaneamente restante, resistente nelle insistenze, insistente nelle resistenze, temperai la tempra ratificando il raziocinio, ragiona grata ad aggradire ragionando. Aggiornando la giornata, venni ad arrivare giunto, e qualche qualunque qualcuno non mi rese la resa nel renderlo reso. I mutanti ammutinati, in accattivanti cattiverie, mi sembravano sembianti nell'apparizione parvente, parsi di parsa comparsa, utilizzati inutilmente per l'inutile totalità, totalmente generica, nell'asseverare asservita, nell'asservire severa. Il gradiente gradito è la gradazione che aggrada. Credo di perturbare imperturbanti credenze. Tuttavia, via tutta. Avete visto la vista versi? Vedendosi aveva e avendosi vedeva. Ma cos'era cosa vista e qual era avere avuto? Mi appiglio allo scompaginare che scompiglia, solo che mi isola il sentimento che sento isolato. Come per dire come, un giochetto da fessacchiotti per fissare la gnocca. Accettate le accette, scorticare le scorterate, vien meno il venir meno, se aggiunta si agguaglia al giungere, se all'impianto spianti il rimpianto, e se il trabocchetto trabocca nel barocchetto. Il fatto detto è detto fatto, se dicendo fai dire il fatto, se facendo fai fare il detto, ascoltando il ripetersi ripeterai gli ascolti, e così via, che via così ovvia cosa va e cosa non va. Ignoratevi insistentemente, insisteranno nell'ignorarvi. Ignobile ignominia spudoratamente impudica, da flettersi nell'infliggere all'inflitto l'infinitamente l'insostenibile. Se divinità divieni, il divenire è divino. Se l'umanità viene, l'avvenire è umano. Diverrò tumulo umanizzando le divinità. E se sarà per essere, essere per essere sarà. Adesso vi mando in onda un pezzo che appartiene ai Clash, quando erano nel pieno della loro riuscita, della loro prima riuscita, e cantata da Paul Simonone, non da Joe Strummer. c'è il bassista, è un pezzo che ha scelto insieme a me Andrea Andi Tagliabue, che faceva parte di Viola Psiche, un complesso storico del Comasco che molti di voi probabilmente conoscono, ecco. Quindi saluto Andrea Andi Taglia, e vi mando in onda questa bellissima canzone. Buonanotte allora, questo io sono Marco, siamo su Giacomo Radio, ci sentiamo mercoledì e buona serata e buonanotte a tutti. Gente che saluta solo con i guanti, qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti.